Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Una volta tanto mi distraggo dal paesaggio che corre veloce al di fuori del finestrino e mi accorgo che per la prima volta ho di fronte una persona che viaggia con una valigetta con la croce rossa. Sembra quasi una grossa valigia del pronto soccorso. È una valigia bianca, di pelle raffinata, con delle cinghie e con una grande croce rossa sopra. Ma cosa porterà mai dentro questa valigia? Cosa sarà? Un medico, un paramedico, uno stregone? Lo interrogo. No, è semplicemente un farmacista. Un farmacista che gira con la sua valigia del pronto soccorso, ma dentro non ha rimedi di prima necessità, non ha farmaci salvavita, non ha cerotti, pecette, alcol denaturato, sistemi per salvare le persone dalla diarrea, dalla stitichezza, dal vomito, dal mal di testa, dalla depressione. No, ha semplicemente quelli che lui chiama i farmaci tiranti. Il farmacista al colpo d'occhio immagina già cosa chiederà il possibile cliente quando lo vede al di là del bancone. Sì, assolutamente, addirittura quando apre la porta. Sì, ma un colpo d'occhio che va oltre quello del medico, l'occhio clinico per capire la patologia. È chiaro, uno che tossisce vuole qualcosa per il raffreddore, ma quando uno è un po' imbarazzato, si gira intorno, guarda, che ne so, gli oggetti in esposizione, i sandali per scura, gli snack, e gira, cerca la persona giusta, deve fare qualche richiesta indecente. L'appesamento è questo. Io normalmente mi sposto anche verso un banco più appartato della farmacia quando vedo il personaggio. Cioè tipo un banco confessionale dove va la gente per le cose in proprio così, esattamente. Ma ci sono ancora oggetti inconfessabili che si acquistano in farmacia? Sembra strano. Addirittura i profilattici sono ancora degli oggetti. E come oggi, se sembra una discoteca l'armadietto, diciamo il bancone dei profilattici, luci, colori, effetti speciali, cioè. Io non so quanti anni ha lei, ma si ricorda quando per comprare un profilattico dentro la scatoletta c'era scritto per una richiesta riservata dai questa al tuo farmacista e c'era scritto sopra scusi vorrei una confezione di Atu 7 Bello, che uno entrava, girava e dava sto bigliettino in mano all'inserviente perché c'era sempre una farmacista donna e questo forte prendimi una scatola di preservativi per sto signore, così facevano perlomeno al centro di Perugia per svillaneggiarti. E oggi accade ancora questo? Sì, accade ancora questo, si vergognano ancora per comprare i profilattici. Le comprano le mogli al supermercato normalmente. Ah, le signore che non si vergognano di metterle nel carrello, no? No, no. Le vedo quando vado a fare la spesa con la famiglia che fanno così. Ma in farmacia ancora. Infatti va moltissimo la macchina esterna, perché è fuori orario quando la farmacia. Eh sì, ma anche lì espone un ludibrio di cui ricordo ancora l'onta dei miei anni giovanili, perché nella mia città Perugia era in una zona centralissima. Uno allora contava i soldi in tasca, giusti, le 400 lire, 500 lire in monete che servivano per l'acquisto indecente, proibitissimo, t'avesse visto un amico di famiglia, lo sapevano i genitori. Poi non so perché ci vergognavamo, che vergogna era non lo so, ma parliamo dei foschi anni 60, 70, non voglio bleffare, 70 ancora eravamo un po' indietro. Succedeva che di solito la macchinetta si inceppava con i soldi che ci mettevi dentro, quindi era doppia vergogna, dovevi entrare dentro, dire guardi si è inceppata la macchinetta, usciva lo metto con la gabanella sempre il solito, apriva la macchinetta di fronte a un capannello di amiche di famiglia che erano lì davanti. Aiuto. Quale vuoi? Ci metteva mezz'ora e tu lì in un angolo a arrossire facendo finta che stavi lì, c'è sempre questo problema, via. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. se poi chiedi un ritardante è un disastro, perché a quel punto lì proprio cade la... Ah, esistono ancora, no? I ritardanti? Sì, sì, sono sempre fatti uguali, con una sostanza anestetica. Che c'è dentro? Un anestetico? Un anestetico, sì. Ma uno poi si atrofizza quando lo mette, no? No, più che altro puoi fare delle figure oscene. Io mi ricordo una gita al liceo che avevo comprato uno di quelli. Si era sbagliato, ha preso un ritardante. Ha preso un ritardante, non so se mi ero sbagliato, ne avevo bisogno. Comunque. Ma una volta ce n'era solo due modelli, mi sembra, che ne so, economico, sì, e con serbatoio. Con e senza serbatoio. Esatto, adesso invece ce ne sono miliardi. Ci vuole un'enciclopedia per trovare quello giusto. Esatto. E poi ci sono tutti quegli altri giochini, no? Che mettono dentro nelle macchine, quindi gel, massaggiatori, cose varie, insomma. Il vibranello va ancora come oggetto? Sì, sì, va ancora. Sempre c'è uno spot, fuori. C'è uno spot che non si capiva cosa servisse, si ricorda? Sì. Sembrava sì, che dava un anello, invece vibrava la scatola e nessuno capiva che era. La gente lo comprava e lo metteva al dito come una fedina e non capiva, dice, ma che serve? Poi tutti lo devono regalare, no? Questo è il classico, anche la classica scusa, banco. Un anello che devo fare un regalo, un amico, sì. Sempre regali, uno sì, scherzo, un regalo. Un regalo, uno scherzo. Uno di celibato. Ma anche con i prodotti, quelli più, diciamo, i farmaci. Cosa c'è, uno speciale armadietto per quello? No, li abbiamo in mezzo ai cassetti normali, sotto in ordine alfabetico, però spesso c'è una richiesta per, appunto, per un regalo. Ma non ci vuole la ricetta per comprare, diciamo? Ci vuole assolutamente la ricetta e alcuni ce l'hanno. Ma sa, adesso Nicoletti fa una ricetta a casa con un computer. Ah, basta stamparsela. Quindi io non posso fare il perito calligrafo. Ah, quindi uno si stampa la matrice di un medico, si scrive vorrei dare a questo signore 7 kg di Viagra. Mamma pensa. Questa è una cosa che non sapevo, le ricette autoprodotte. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Uno scansiona la ricetta, una vera, la ricetta dell'aspirina, esatto. Con Photoshop la cancella e poi esatto. Ne stampa 10, ci scrive Viagra tonnellate. Adesso non dovremmo fare... No, mi è venuto in mente adesso. Però ha ragione, è così. Sì. No, ci sono queste cose qui molto di moda, da sexy shop e i tiranti, chiamiamoli così. Ma rispetto al tirante c'è qualche episodio particolare, non so, persone... Ma ce ne sono un po' tutti i giorni, proprio dalle modalità di presentarsi all'acquisto, come diceva lei prima, con le più strane. Ah no, aspetti, faccio la fila qua, poi magari io sono al banco, questo signore aspetta me, nonostante poteva essere servito quasi 20 minuti prima, sta in fila a aspettare perché si vergogna meno. Ecco, questo è già. Cosa fa? Le mette in mano la ricetta o dice vorrei il tirante dicendo il nome? No, all'inizio mi danno la ricetta e poi magari me ne chiedono un paio di, o addirittura 3 confezioni in più per evitare, insomma, la vergogna di doverci tornare un'altra volta. E poi comunque sono tutte persone che vengono abbastanza da fuori. Allora, perché uno va a comprare il tirante in un'altra città? Sì, da comune a comune, diciamo, per me già è sufficiente così, sì. Poi ci sono quelli che chiaramente se ne fregano, entrano con scarpe, ragazze. Cioè, ma c'è una tipologia di clienti di tirante, giovani, vecchi, anziani. Guardi, Nicoletti, le fasce d'età sono le più disparate. Partiamo dai giovanissimi che sono in cerca della super prestazione più che della fascia da, diciamo che... Eh sì, se uno si abitua col tirante poi tutto gli sembra meno, naturalmente. Penso proprio di sì. Però, e poi si passa agli anziani, super anziani. Uno una volta mi ha detto che, diciamo, insomma, spendo 50 euro per questo, per il farmaco. Poi spendo 10 euro per la scatoletta dei preservativi. E poi dopo spendo altre 50 o 30, non mi ricordo quanto, per la signorina di colore. Gli costa caro? Insomma, gli costa caro. Lo so, mi era abituato male con la moglie quando era giovane, che era tutto gratis. I tempi cambiano. Le signore invece fanno richieste indecenti, visto che tanto ormai l'argomento è questo, dobbiamo passare il tempo così. Sì, le signore, le donne le fanno anche loro. Ma che c'è di indecente al femminile? Non mi viene in mente nulla. No, viene... ho visto delle signore... A parte il manganello elettronico, ma le altre cose? No, vengono a comprare anche i prodotti per i mariti. Ah, per i mariti? Ma quelli che proprio non ce la fanno vengono a comprare. Ci mandano la moglie avanti, certo che uomini. Cioè, pensa che virilità avranno nel momento focale quando mandano a comprare il tirante alla moglie, dice vammi a comprare il tirante. Manco quello. Ho conosciuto un ragazzo romagnolo che lui veniva a comprare un prodotto specifico di quelli che si fanno, si iniettano direttamente, no? Quindi una la punturina, la punturina, che è papaverina, cos'è? No, è sempre un, diciamo, una sostanza che ha la stessa funzione. E proprio bisogna farsi una puntura nel posto, nel posto delicato. Ci vuole una certa, certo coraggio. Però mi dice, lui faceva un lavoro tipo la Ricciardia, quel film famoso, no? Sì. E quindi soddisfava delle signore di una certa età e faceva un po' fatica, quindi usava questo prodotto. E mi diceva che comunque era diventato un gioco anche quello. Cioè farsi la puntura insieme lo aiutava. C'è un gioco sadomaso, gli buttava la roba nei corpi cavernosi. Sadomaso. Come si chiama questo prodotto? Tanto lo conosco il tutti. Caver, il Caver Jet. Il Caver Jet. Cioè mette un jet nei corpi cavernosi praticamente. Esattamente, penso che volessero indicare questa cosa. Un aereo supersonico nei corpi cavernosi. È solo che persiste trecchio questo aereo, cioè, un volo molto lungo. Ah, uno rimane diciamo in imbarazzo per quanto tempo? Un bel po'. Tipo sono un ragazzo giovane, io penso che possa stare lì anche 3-4 ore, ma quindi insomma, deve averci un bel po' di tempo, sennò non può uscire dalla stanza, non può andare. Esatto, poi senza periodi refrattari, quindi assolutamente. Ah, così rimane proprio come così, l'asta di una bandiera sulla tolda di una nave. Perfettamente. Ma se uno deve uscire va in metropolitana, come fa? Cioè, ci sono problemi proprio. Un pochettino. Pare che anche la mattina dopo in casa, in bagno, devi fare la pipì dall'ingresso con la porta aperta. Dicono che non l'ho mai provato, dottore. No, vabbè, poi questo le cose private non ci interessano. No, però insomma devi avere anche un appartamento fatto in un certo modo. Vabbè, uno pianifica, devo fare l'iniezione, comincio, vado in una casa che abbia delle porte sufficientemente larghe per farmi passare. Vado, che ne so, se devo avvicinarmi a un tavolo, la sedia deve stare abbastanza distanziata. Se improvvisamente suona qualcuno alla porta, devo avere uno scatolone e fingere di portare in mano uno scatolone dove colloco la vergogna inalberata. Ci sono dei sistemi, no? Ci sono, sì. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Io però, se posso essere sincero, di tutte queste cose ho provato, perché le provo più o meno tutte, perché è così. Penso che qualsiasi farmacista lo faccia, adesso non nascondiamoci dietro. Ma certo deve farlo il farmacista, se no non ci fidiamo. Io ho provato uno di quelli con la C, che è fatto a goccina, non so se l'ha mai visto, e sarebbe il Charis, si può dire. Ah, beh, tanto ormai sì. Esatto. Io ho provato il Charis, devo dire che è una cosa, un pezzettino, è una cosa incredibile. Cioè, come quelli che provano l'oppio, le droghe pesanti, dicono. È un viaggio. Sì, è un viaggio perché hai appunto questo periodo lunghissimo in cui puoi lavorare e lavorare, insomma, se mi esprimo un po'. Quindi il nostro fratellino indisciplinato finalmente ha le briglie e risponde al comando. È il sogno di ogni uomo. E poi le dirò di più, che questa ipervasodilatazione porta a una diminuzione di sensibilità. E quindi un aumento del periodo di... Vabbè, è come averci la mummia al posto del pisello, però dov'è la soddisfazione? Niente. Cioè uno c'ha un attrezzo insensibile, sarà anche spaventosamente robusto, ma è come farci l'anestesia del dentista sopra, che rimani con la bocca insensibile per mezza giornata. Qual è il test per capire se è solo passione e amore o se c'è anche l'intervento biochimico all'interno? Lei cosa dice, Nicoletti? Penso che mi fa la risposta anche lei. No, magari c'è un uomo particolarmente vigoroso, dice, vedi, non può essere. No, così no, così tanto no. Io, secondo me, è proprio il discorso del... Una volta mi raccontò un'amica che usciva sempre con un suo fidanzato, e andavano sempre a cena, quando questo era a metà cena ci prendeva sempre una pillolina. Vabbè, sarà un digestivo, sarà qualcosa per la... E un giorno gli è caduto il blister, ha visto che ha questa robetta gialla, ha capito che faceva parte, diciamo... del menù, il doping necessario per il dopo cena. Che ne capitano anche di quelle, veramente. Ma se si sbagliano i tempi, diciamo, di preliminare, metta caso la cena dura più del il cameriere non ti serve a tavola, passa più tempo, non si alza più dal tavolo quel signore che aveva preso la pillolina, non si può alzare, tenere sempre il tovagliolo addosso, come fa? Devi considerare che comunque ci vuole una stimolazione. Se non c'è stimolazione non succede niente. Sì, per le compresse ci vuole stimolazione. Sì. però per puntura no, la punturina purtroppo lei agisce. Quella è istantanea. Vabbè, quella uno se la fa proprio all'ultimo momento, sì, no? Sì, esatto. Certo, come si fa a fare la puntura? Cioè uno salza un attimo, scusa un attimo cara, vado a inciprarmi il naso, e ti tira fuori la siringa, se la spara. O quelli che le fanno per gioco, quindi insieme alla parte. Ah, vabbè. Fanno un gioco sadomaso, facciamo un gioco sadomaso a caso. Tu mi fai le punture, giochiamo al dottore. Tu mi fai la puntura, così funziona. Io penso di sì, o se no effettivamente dovrei andare in bagno. Penso che una volta ero qui in farmacia, il mio collega, il mio capo, e il nostro cliente con ricette e tutto, che se lo faceva sempre, aveva un problema alla mano e doveva incontrare una ragazza tipo 20 minuti dopo. Aveva una gran fretta, ragazzi veloci veloci che siamo andati in bagno e dovevamo fargliela noi l'iniezione. Gliel'ha fatta lei, gliel'ha fatta? Allora, io mi sono rifiutato. No, perché un farmacista non è obbligato a fare iniezione. Questo è un amico fratello. Beh, per un amico si fa anche l'iniezione sul piso. Beh, scherziamo. Fra uomini se non ci si aiuta, insomma, così. È stata fatta la puntura un po' così, tipo girato dall'altra parte. E dove gliel'ha fatta invece? Posso dire? Sì. Delle palle. E quindi è successo? Delle palle grossissime e un pisellino inesistente? Mi scuso, mi è andato così davvero. No, gli ha siringato il testicolo. E quindi praticamente c'aveva una sorta di orchite e un cecino, un pisellino sopra inesistente. Esattamente, purtroppo è tornato il giorno dopo e ha detto: ah, ragazzi, non è andata. Sai com'è. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. C'è una pastiglia per tutto, no? Per tutto e per tutti. Quindi c'è anche quello, la pastiglia ritardante. La pastiglia ritardante? Sì, è un derivato di un, diciamo così, un come si faceva una volta, di un antidepressivo. Ah. Effetto collaterale di ritardare. Cioè come il bromuro, quello che si dava ai soldati sotto la naglia. Esatto. Allora, quello c'è, cioè, rischiosissimo, che dopo uno se esagera col ritardante poi deve prendere il tirante. E diventa il piccolo chimico fare l'amore, non è possibile. È tutta una pastiglia, no, ma sono d'accordo, scherzo. Anche perché se prendi delle pastiglie, poi una donna normale ti dà una pacchetta sulla spalla e ti dice: senti caro, piuttosto vado a fare un trasloco che guadagna un po' di soldi, ti sto sudando di più che... Sì, no, non lo so, io immagino queste scene perché... Ma lo so, ormai ci si abitua, le donne sono molto generose. Ho fatto dei piccoli test chiedendo in giro, come si sa, i poverini, sanno questo problema, un po' come quando noi abbiamo il mal di testa. In fondo, alla fine, dal loro punto di vista, l'aspetto tecnico, ingegneristico della prestazione è soddisfacente e invariato. Poco a loro importa se in realtà ci sia dietro un sistema indotto, ci siano dei normali meccanismi di chimica organica. Alla fine che ti importa? L'uomo è quello, è un pleonasmo attorno a quell'oggetto che alla fine, tolto quello, non rimane più niente. Penso che sia questo il punto di vista femminile. Sì, l'ha detto proprio da donna, però. Eh sì, perché l'uomo è quello, l'ha detto da donna. Sì, sì, lo so. Diciamo che raccolgo molte confidenze delle donne. Quindi. Va bene, no, grazie sì. Caro amico. Le auguro lei, un buon successo e non dimentichi la valigetta e i suoi prodotti, perché se la porta sempre dietro. Sì, sì. Va bene, grazie, grazie. Al prossimo giro. Al prossimo. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non so perché a volte ho proprio l'impressione che sto per arrivare alla fine del mio viaggio. Mi aspetto già di incrociare la donna che mi aspetta laddove finiscono i binari. Cosa mi dirà? Cosa avrà da dirmi? Che pensiero mi spererà a vederla? Ogni tanto sento la sua voce che mi segue, mi solletica, mi seduce, mi tormenta. Delle volte mi semina un'inquietudine inarrestabile. Ed ecco che adesso le ho dato una missione. Deve elencarmi le cose che non mi mancheranno alla fine del mio viaggio. Quando finirò il mio viaggio lascerò il mio bagaglio, probabilmente, sul treno e me ne andrò a piedi. Sarò leggero e non avrò bisogno di portarmi dietro niente. Se per me o per qualunque delle persone che mi ascolta dovesse esserci un'imminente certezza della fine del viaggio, quali sarebbero le cose che non rimpiangerebbero, che lascerebbero volentieri alle loro spalle, delle quali non sentirebbero mancanza nemmeno nell'estremo viaggio? quello che non si compie su rotaie pesanti di ferro, ma su leggere nuvole. Le cose che non rimpiangerò se finisce il mondo. Quelli che dicono che non hanno la televisione. Sì, e magari la sera leggono solo dei buoni libri, fanno belle conversazioni con gli amici, ascoltano musica classica. Sono le peggiori vittime della TV generalista. Per loro equivale a quello che rappresenta una baiadera per un seminarista. Antonella Clerici è più pericolosa alla loro identità culturale che un allevamento di maiali in giardino per un musulmano. Lo dicono, ma in realtà sanno tutto della TV, come se l'avessero vista. La TV contamina anche chi non ce l'ha, soprattutto chi la fugge, perché la desidera. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Altro non rimpianto, che sicuramente mi lascerò alle spalle quando arriverò alla fine del binario, è quella stressante, noiosissima insistenza di quelli che cercano i prodotti naturali come li facevano una volta. Sono di radici contadine, ho visto lavorare la terra, in parte sono stato contiguo ai lavori della terra, ho visto raccogliere olive, ho raccolto olive, ho visto spremere olive, sono andato a prendere l'olio al frantoio, che allora non si chiamava extravergine, era l'olio, quello buono, quello verde, quello che ci portava il papà la mattina, con l'olio nuovo, e noi lo mangiavamo con il pane. Per oggi la ricerca dell'olio del contadino, i migliori oli, i più saporiti, e quelli che fanno leccare i baffi buon gustai, hanno scoperto sono fatti con le peggio schifezze, con la morchia usata dei motori d'automobili che passa attraverso procedimenti chimici e diventa olio buonissimo. Quindi mi lascio alle spalle l'olio extravergine come lo facevano una volta i contadini. Posso farne anche a meno. Le cose che non rimpiangerò se finisce il mondo. L'olio è quello buono che ci porta il contadino. In realtà, se veramente quell'olio lo spremesse a mano come Millanta e ce lo portasse tale e quale come cola dalla pietra del frantoio, noi nemmeno lo riconosceremmo come olio, tanto siamo abituati alla meraviglia dell'artificio chimico. È illusorio come l'uovo appena uscito della gallina o le marmellate fatte in casa senza conservanti. Sono leggende metropolitane a cui non bisogna dare credito. Poi esiste un'altra fissazione. È la fissazione delle cose al di fuori delle norme, delle regole, del cibo sì naturale ma anche condito di una sorta di intellettualismo che lo porta a un rango che fa assomigliare un pezzetto di pane raffermo con sopra un po' di burro rancido con una sorta di tartina che mangiano soltanto alla mensa degli dèi. Un'attenta osservatrice di questo fenomeno, della pretesa di dover dettar legge per una sorta di investitura quasi divina anche nei consumi banali del cibo, è Daniela Ranieri. Daniela Ranieri è una valente scrittrice, editorialista, e una volta mi raccontò di quando lei veniva invitata come oggetto antropologico d'osservazione alla mensa degli dèi, gli Aristodem, coloro che gestivano il pensiero nella capitale del mondo, che poi altro non era che le terrazze romane, e osservava quello che loro mangiavano, quello che loro si passavano, quello che loro contemplavano, quello che loro meditavano. Amiamo il cibo quanto meno abbiamo fame. Quindi in un certo senso possiamo permetterci di scimmiottare l'indigenza quanto più viviamo nell'opulenza. Basti pensare alla mitologia degli orti urbani. I nostri genitori, i nostri nonni, dopo la guerra dovevano appunto avvalersi delle coltivazioni degli orti urbani, allevavano le galline sul balcone e adesso questa è diventata una scelta molto chic. In più i nostri genitori e nonni dovevano lottare per farsi accettare dagli esponenti dei ceti più alti, che erano rappresentanti di una borghesia monetaria e di un'aristocrazia delle maniere, diciamo così, pensiamo a Misere e Nobiltà di Totò. Per cui usciti da quell'ambascia, nel cibo oggi noi concentriamo tutte le nostre ossessioni e tutte le nostre nevrosi. Abbiamo una lista di preferenze, abbiamo una lista di interdizioni, abbiamo attraversato l'epoca dell'esotismo e siamo rientrati, in una sorta di autarchia, per esempio dall'etica del chilometro zero c'è l'elogio dell'eccellenza, del DOC e del DOP, quindi delle origini controllate e protette, e contemporaneamente c'è questa riscoperta della tradizione in chiave anticonformista. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. A un certo punto si è fatta strada un'epica del crudo, che era una derivativa diretta dell'esotismo filtrato dai francesi, quindi carpaccio di manzo, di vitello, di maiale, il carpaccio di salmone, di spada, di sgombro, nasello, spigola, affumicati, eccetera. Poi c'è stato a un certo punto il carpaccio di polpo, non so se ti ricordi, con i tentacoli in sezione che dovevano essere ben visibili. Poi addirittura il carpaccio di verdure, in particolare i carciofi. Poi al manzo abbiamo aggiunto la rucola. La rucola è stato un mito degli ultimi anni, che adesso è un po' entrato, cioè, più era povera, là c'era la rucola di prato, una volta mi servirono una rucola di ferrovia, doveva essere raccolta ai margini di una strada periferica vicino a una casa cantoniera, doveva proprio dare un senso di natura ultra contadina, povera, più era povera più era sofisticata. E poi la frutta, abbiamo anche messo in carpaccio la frutta. Io leggo tuttora in un ristorante in cui vado spesso a Roma le pere in carpaccio, ma cavolo, ma sono fette, sono fette, fettine di arancio, di finocchio, il parmigiano in carpaccio, parmigiano DOC ovviamente con l'aceto balsamico sempre DOC, una valorizzazione della località quasi ossessiva, per cui c'è la cinta senese, il pistacchio di Bronte, il culatello di Zibello, il vino in purezza, ecco, c'è questa dialettica interna nel cibo tra la molteplicità dell'offerta e la monomania, per cui tutto deve essere puro, tutto deve essere d'origine controllata. Tra l'altro oggi si privilegia tutto quello che ha a che fare con la tradizione, le feste comandate, l'autenticità del naturale, dimenticando che non c'è niente di più artefatto del mito della semplicità. Ogni tanto mi piace di essere testimone, mentre viaggio in treno, degli approcci da scompartimento. Ci sono ancora quei provoloni da treno che oggi hanno la vita un po' più facile. Una volta, quando gli scompartimenti erano una sorta di salottini chiusi, ricoperti di velluto, si chiudeva la porta, si abbassava la tendina, insomma già sembrava un'alcova, però c'erano le distanze da mantenere. Tutta questa procedura, per essere messa in atto, già presupponeva una certa compartecipazione o complicità da parte della vittima. Oggi nei treni veloci, soprattutto nelle classi infime, quelle che frequento io, ci sono tanti sedili attaccati uno all'altro e il problema è non incrociarsi le ginocchia. Il mesto e sommesso ed improvvido strusciare di un ginocchio viene subito riscambiato con uno sguardo cattivo, ma non si può fare a meno. O stende le gambe uno o le stende l'altro, perché si sta appiccicati uno all'altro, si sente la pesantezza del fiato di quello di fronte. Beh, invece accanto a me ci sta il provolone da treno. Lei praticamente non si fa i cavoli suoi, sta testa bassa, acqua e sapone, totalmente disinteressata. Ha in mano un taccuino e sta scrivendo, scrive fitta e veloce, ogni tanto cerca nei pensieri quello che deve scrivere e poi scrive. E lui fa il galante e naturalmente è già mezz'ora che sta parlando al telefono, fa il piacione, fa finta che lui ha chissà quale grande affare in ballo, chiama i suoi amici, ogni tanto butta un'occhiata lì e le comincia a chiedere, scrive? Ma cosa scrive di bello? Ma cosa scrive il suo diario? Ma scrive un romanzo, da quello che mi sembra di intuire è una poetessa. Ah, sapere quali sono i versi che lei sta scrivendo. Lei non gli risponde, alza gli occhi, fa le spallucce, fa un mezzo sorriso. Come farà a sapere quello che lei scrive? Ma soprattutto quello che lei pensa? Beh, con la mia nuova fantastica app ho il rivelatore di pensieri di femmine molestate. È un'app segreta, me la sono scaricata stanotte e la provo per la prima volta. Basta semplicemente sintonizzare la propria telecamera sulla persona di cui si vogliono cogliere i pensieri e in un attimo l'app mi rivela quello che pensa. Ancora? T'ho visto che mi guardi, eh. Stai lì, sbirci. È il solito. Ma come mi fissa? Ma che è? Ho scritto due righe e mi sta guardando come se avesse davanti la donna più seducente e misteriosa del mondo.